fuori dal giorno stabilito, anche perché e soprattutto per farci raccontare da Gabriele Vasquez come è andata a Cannes. Buonasera Vasquez. Buonasera, buonasera. Parliamo naturalmente di cellulite e cellulite e il cinema raccontato alla radio. Tra l'altro nel 1970, campionato 71-72, stavo vedendo, perché c'è una pagina proprio dedicata a quegli anni, Hit Parade italiana, stavo guardando le partite di quella settimana. La Roma perdeva a Torino, però non c'era la Lazio. Fantastico, che campionato meraviglioso. Non c'era la Lazio, giuro. Fiorentina Juventus 1-1, Inter Mantova 2-0, Napoli Bologna 0-0, Cagliari Sampdoria 3-1, Torino Roma 2-0, Lanerossi Vicenza Varese 0-4, Atalanta Milan 0-1, Catanzaro Verona finì 0-0, caro mio. Vabbè, insomma, stavo facendo tutto un discorso bizzarro sulla televisione di quel periodo e delle meraviglie che ci regalava e che invece oggi non ci regala più da anni. Eh sì. E invece siamo costretti a vedere Donne Cannone, dicevo, Nani del Circo, Casi Umani, Strappone, e guadagnano un sacco di soldi, che con quei soldi una piccola parte potrebbero fare l'ira di Dio. A volerlo. A volerlo, ma per carità di Dio, certo, a volerlo. Allora, insomma, com'è andata a Cannes? Allora, film belli ne hai visti? Allora, no, pochi. Allora, si è letto in lungo e in largo che è stata un'edizione debole del festival. Del resto c'è da dire, cioè, che sei andato lì per la prima volta, esatto, ed è stata, esatto, un'edizione debole. Sono sicuro che è una coincidenza, sono sicuro. Del resto, l'edizione precedente, cioè l'anno scorso, e due anni fa erano state due edizioni straordinarie, fuori da ogni cosa. Ecco. Quindi era prevedibile che. Però a me mi rincuora che sia stata una pessima edizione, che vuol dire che Venezia andrà bene, perché chiaramente i film o c'ha a Venezia o c'ha a Cannes, queste sono le due cose. E l'hanno dati a Venezia, secondo te? Beh, già si sa che alcuni, Terence Malick, il nuovo sarà a Venezia, ci sarà il nuovo film di mi ho dimenticato il nome, ma non fa nulla, non guarda è un che, problema guarda che di un grande regista. Il regista di Animal House, il regista di L'uomo manare americano a Londra, Una poltrona per due, John Landis. Non mi veniva, incredibile. Ci sarà John Landis, ci sarà Terence Malick, insomma Venezia dovrebbe compensare quello che non ha fatto Cannes. Comunque il festival di Cannes, pur tuttavia il festival, io sono andato con un preciso obiettivo di questo festival, quello di farti più feste possibili la sera, ma questo durante la sera, l'obiettivo del giorno trovare gli inviti per la festa della sera. Allora, il preciso obiettivo di questo festival era sì il concorso, perché sì, ma soprattutto le sezioni parallele. Tutte le cose, capito? Quelle, cioè per esempio le due sezioni parallele principali si chiamano Cansan del Realizzatore e Semen de la Critique, che sono una orientata a trovare cose strane e l'altra orientata a fare solamente opere prime e seconde, quindi solo novità, solo gente nuova, roba nuova. Devo dire che ho visto... Come fa la Rai, dai, oggi voglio essere polemico, sono molto polemico. E devo dire che ho visto cose abbastanza interessanti in quelle sezioni, per cui quello che era debole nel concorso, Khan l'ha recuperato nelle cose... Allora, diciamo le cose più interessanti, i film più attesi. È stato fuori concorso, brutto, Wall Street 2, brutto. Brutto, brutto, brutto, brutto. Noioso, bruttissimo. Sempre... Addirittura noioso? Sì, una cosa... Ma sempre con loro due? No, non c'è... cioè, c'è... Gordon Gekko, cioè Michael Douglas, sì, ma non c'è Charlie Sheen. E perché Matt Fox? Perché si è rivelato? No, perché poi fa anche un cameo bruttissimo. Però la storia che voleva imbastire Oliver Stone prevedeva un altro ragazzo, cioè di nuovo si crea la dinamica Gordon Gekko anziano e un nuovo ragazzo giovane. Lui è sempre uno squalo della dell'alta finanza. Lui esce di galera all'inizio, perché avevamo lasciato nel film precedente che Charlie Sheen riuscì a farlo arrestare. Esatto. Sì. In questo lui esce di galera e si ritrova, infatti molto, molto carina la scena in cui esce di galera, in cui gli ridanno le sue cose, no? Quando tu entri in galera ti levano gli oggetti, effetti personali. Tu ne sai qualcosa. E gli ridanno, dicono, non so, un paio di scarpe, una cosa, un telefono cellulare, gli danno un affare gigantesco, un telefono cellulare degli anni 80, capito? Una cosa immensa. E niente, lui esce fuori ed è totalmente fuori da questa finanza di oggi, che poi è completamente diversa, che non funziona. Infatti questo è molto il tema del film, che la finanza di oggi è completamente diversa. E lui, il film, il protagonista è Shia LaBeouf, cioè il ragazzo. Lui è un po' allato, ma verso la fine emerge, perché poi tenta di tornare grande, chiaramente. Però insomma il film è noiosissimo, è una cosa veramente addirittura noioso. Non ci sono quei colpi di scena come nel primo, questa corsa. Ma anzi, poi demoliscono molto il mito. Guarda, il punto è, questo l'hanno dichiarato anche nella conferenza stampa, una delle cose più strane di Wall Street il primo è che loro pensarono a Gordon Gekko, cioè al personaggio di Michael Douglas, lo squalo della finanza, come uno straordinario cattivo, e in effetti è un cattivo fantastico. Solamente che negli anni, ma è anche questo anche oggi, è diventato un mito, cioè è diventato un mito per gli studenti di economia, cioè una figura da emulare, quindi una figura incredibilmente positiva. Il suo motto, che era l'avidità è una cosa buona, è diventata una cosa apprezzatissima da tutta una serie di persone che probabilmente non vedevano l'ora che qualcuno dicesse l'avidità è cosa buona. E quindi in questo film hanno voluto poi demolire questo personaggio, e chiaramente ne perde, perché la sua forza e il suo fascino era questo essere così carismatico, questo essere così. C'è stato un caso stranissimo al festival, cioè c'è stato a un certo punto, io arrivo una mattina, arrivo e non riesco a passare con la macchina perché manifestazione. Allora, cordone. Come si permettono? La mia macchina! Ma da matti! Avevo anche gli adesivi Radio Rock. Ma scusate, cioè. Già sì! Esatto, vieni nel vicolo. C'era il cordone di polizia in tenuta antisommossa. Sembravano i carabinieri quando si vestono di nero con lo scudo. Cordone tutto intorno, non si passa, c'è la manifestazione, non si passa neanche. Allora io parcheggio fuori, poi entro perché ho il mio super badge incredibile, certo. Entro e c'erano quattro anziani de paese, ma sai quelli col fisico da paesano, cioè sì. Una persona paesana. E perché stavano lì? Inviperiti, ma erano quattro, però inviperiti. Io purtroppo non capisco il francese. Io non capisco il francese. Quindi non ho capito una mazza. Niente di quello che ti ho fatto spiegare da un gendarme. Che sì, mi hanno spiegato in francese. Non hai capito mazza, niente. Però ho capito a quale film facevano riferimento. Che è Hors la loi. Perché io non lo capisco, ma lo parlo benissimo. Sì. Che sarebbe Fuori legge. Sì, il titolo. È un film che era in concorso e che tratta del problema algerino, cioè dell'indipendenza dell'Algeria. Come l'Algeria a metà del Novecento sia passata dall'essere uno stato satellite dominato a conquistarsi la sua indipendenza. E dipinge i francesi malissimo. Infatti questo mi fa pensare che la manifestazione è stata per quello. I francesi non ci sono stati. Beh, non è che sono stati molto simpatici, esatto, con gli algerini. Tra l'altro, diciamo, sì, per carità. No, loro, devo dire che loro, anche se stessi, non si dipingono bene. Cioè, insomma, non nascondono che pure gli algerini non è che hanno fatto di cotta di crudo, che il terrorismo alla, anzi c'è, poi c'è un altro film, ci sono stati molti film sul terrorismo, c'era un altro di 5 ore e mezza che io ho visto. No, 5 ore e mezza, come hai fatto? Sono un professionista di questo lavoro. Porco, c'è dei popcorn, Coca-Cola? Niente popcorn, niente Coca-Cola. Siamo a un festival, si lavora, gente che lavora. Porco cane. Si chiama Carlos ed è un film di Olivier Assayas, che è un regista molto noto, che ha fatto quest'opera su uno dei più grandi terroristi francesi. Si chiama, il nome in codice era Carlos, operava a livello internazionale, era in realtà, veniva da, non veniva proprio dalla Francia, però faceva capo al quel ramo francese del Fronte di Liberazione Palestinese. E in quel film, che è andato in concorso, ha a che fare con lo sciagallo, comunque. No, è lo sciagallo. Ah, è lo sciagallo. È lo sciagallo, proprio. Esatto, esattamente lui. No, noto anche come Carlos. E in questo film, a un certo punto, che è andato due giorni prima del film sull'Algeria, lui dice proprio: facciamo un bel attentato all'algerina. Muoiono tutti. Muore. Chi tocca non si. Terribile, sì. Ed è un film, sono rimasto contento perché è un film che guarda questo Carlos, è bello e guarda molto la maglia gioventù. Cioè, stanno imitando un po' le cose che facciamo noi. Che è una cosa che. Drammatico proprio, brutta cosa. No. Lui ha preso. A me non era dispiaciuto la maglia gioventù. E lui ha preso quel tipo di sguardo, quel tipo di cose. Insomma, non. Sono rimasto, certo, molto soddisfatto. 5 ore? Che film? 5 ore perché era destinato alla televisione. Quindi in realtà sono tre parti. Però io ho visto 5 ore e mezza. 5 ore tutto di filato. Ma cioè, mi ha chiesto: ma scusate, ma questo è in tre parti? Noi lo vediamo in tre parti diverse? No, messie. All together? Assolutamente no. Tutti insieme. Vabbè, insomma, sti premiati chi sono? Allora, arriviamo al dunque. Guarda, c'erano le notizie sui giornali online. Cioè, le notizie piccole. Cioè, sì. Non se ne è fidato veramente nessuno. Perché ha vinto? Adesso ti spiego perché, io ho la verità. Allora, perché? Oh, ecco. Perché nessuno si è filato la Palma d'Oro, il vincitore. Le motivi sono due. Uno è facile, perché Germano ha vinto la Coppa come miglior attore, quindi quello ha preso i titoli. Ma il secondo è che durante il festival, noi intendo io, quelle persone che conosco, insomma, giornalisti tranquilli, giornalisti seri, mettiamola così, ridevamo molto. Dice, ma pensa se vince questo, pensa te se vince proprio questo. Film francese? No, è un film thailandese. Thailandese. Pensa se vince questo, io mi compro tutti i giornali il giorno dopo, perché voglio vedere che scrivono. Perché è un film di quelli che in sala noi vedevamo che la gente si alzava e se andava proprio, ma proprio alla grande. Cioè abbiamo finito il messaggio dell'artista. Esatto. Del grande, del grandissimo cineasta. A Piccia Pong verrei stata cool. Si chiama così. Esatto. E come dire, l'ho imparato a memoria perché c'è un artista. Ma abbiamo finito la proiezione, eravamo un quarto di quelli che l'avevano iniziata. Una cosa pesante. Io ho anche visto chi è che è uscito, perché ovviamente Mi sono andato a dare i soldi poi per il giorno dopo sono andato a sfogliare e a ridere. Per non dire in radio chi era quello che, quelli che erano usciti, vado a dare i soldi. Come il mio solito, loro sanno che. Allora, perché uscivano? Andiamo al dunque, questo film thailandese. Questo film thailandese, io che sono un grande amante del cinema coreano, io che ne ho visti di film anche di 5 ore, mi sono annoiato in una maniera pazzesca, una noia mostruosa. Camera fissa? Madonna, ma fissa come non mai. Allora, si racconta. Chiodata. Esatto, si racconta di. Il titolo è Zio Bunme, che si ricorda delle sue vite passate. Questo è il film. Allora, si comincia con un bue e si sta a lungo sul bue, bue. Sì, molto bue all'inizio. Che io da critico smaliziato ho già pensato, vedi. Il gregge di Cuney. Esatto, cioè, a parte che una raffinata citazione del gregge di Cuney. Ma poi vedi che una delle vite passate, sicuramente una vita passata. Poi si comincia con questo, il protagonista. Ma il boy che faceva? Si muoveva, a un certo punto se ne va, poi torna, poi se ne va. E la telecamera fissa? Sì, fissa. Poi arriva. Ma stai scherzando? No, giuro. Poi arriva zio Bunme, che è il protagonista. Che ha un problema ai reni. Ora, per arrivare che c'è il problema ai reni, ne passano dei minuti, arrivare che c'è il problema ai reni. Ma parlano? Sì. Però parlano di cose varie, del tipo, hai visto, ieri è piovuto? Sì, ma oggi invece c'è il sole, già. Questi dialoghi così. Bene. C'ha un problema ai reni e si capisce a un certo punto che è andato a stare in questa residenza di campagna thailandese dove ci stanno appunto i buoi, questa roba. Voglio morire qua. Ah, certo, voglio morire qua. Giustamente. E con lui dei parenti ma non stretti. Ora non si è capito bene esattamente che parenti siano, però si è capito che non erano stretti. Dopo due o tre scene molto lunghe fisse, a un certo punto c'è un'altra molto lunga, fissa a tavola a cena. Stanno a tavola e parlano del più e del meno, veramente, per una decina di minuti. A un certo punto c'è una sedia vuota di quella tavola, perché non c'è nessuno, non c'è quella persona che la occupa. Piano piano compare una persona, cioè compare come un fantasma. Loro non si scandalizzano troppo, del tipo, ah, e tu chi sei? Così proprio. Ah. Sono tua moglie che era morta. Ah. E cominciano a parlare. Ma che Zorro, ma sempre del più e del meno, del più e del meno. A un certo punto. Ma anche lei, la morta, parla? Sì, tranquillamente. Ma mangia anche? No. Non mangia. A un certo punto, dal buio, emergono due occhi rossi. Che a un certo punto mi sono anche detto, oh, ecco, la svolta, adesso parte, ho pensato. Emergono due occhi rossi che si avvicinano in maniera molto inquietante, con passi rumorosi, loro guardano, non capiscono che è, si avvicinano sempre di più. Ed è un uomo, ma ricoperto di peli. Pelosissimo, una cosa, ma peli in maniera innaturale, capito? Con gli occhi rossi, rosso fuoco. Si siede a tavola anche. Si siede a tavola? E tu chi sei? Sono tuo figlio che si era perso nella foresta e sono diventato uomo scimmia. Ma sul serio? E intanto la gente del pubblico che se ne va, la gente che si alza e se ne va. È un capolavoro. È un capolavoro. Ma siamo a un quarto di film, Stanno a tavola che parlano lui, i parenti che non si conoscono, la fantasma la e l'uomo scimmia. Poi devo dire che ci sono due belle sequenze, sul serio, ci sono due bei momenti dopo, quando poi lui sta male, sta quasi morendo e il fantasma gli sta vicino. Ci sono dei momenti buoni, cioè che mi sono piaciuti, perché ho pensato, ecco, vedi, però è un bel film. Poi, però, ho cantato vittoria troppo presto. A un certo punto vanno in una grotta e rimangono una vita in questa grotta. A fare cosa? Non si sa, perché l'inquadratura è insoggettiva. Cioè è come se tu guardassi dagli occhi suoi. Per cui vedi questa grotta e i pesciolini e le stalagmiti. E poi di nuovo grotta fissa. E poi un'ombra che si sposta. E poi ancora grotta. stanno una vita in questa grotta. In mezzo, mentre stanno nella grotta, parte un racconto che io ho capito, cioè non è che te lo dicono, ma io ho capito essere un racconto tradizionale delle favole thailandesi di una principessa che infatti sta in costume, cioè la principessa, che in uno stagno parla con un pesce gatto, e questo, lei poi entra nello stagno e il pesce gatto la possiede, cioè più che la possiede si infila, quindi proprio. E si vede il pesce gatto che poi depinna, gli dà di pigna per spingere, per entrare per bene. E finita la favola si ritorna nella grotta. Lui praticamente muore nella grotta. Devo andare a vedere questo film, dai. Attenzione, adesso vi dico il finale, se volete vederlo cambiate canale della stazione della radio, perché No, non lo dire il finale. Vabbè, non vi dirò il finale. Non si dice il finale, dai. Vi dirò la scena finale, che non ha a che vedere col finale della trama. Aspetta, prima saluto Pablo che dice: ti amo Prince, se parliamo di musica, ma ti prego non parlare male della Lazio. Io non ho parlato male della Lazio, ho detto che guardando la cosa non c'era la Lazio, io non sono competente di calcio, però qui mi scrivono era in Serie B, di lì a 2 anni avrebbe vinto lo scudetto dando spettacolo dappertutto, quindi deve essere un tifoso della Lazio, che quindi va bene. E insomma, vi racconto la scena finale perché è esilarante, ma non ha a che vedere col finale della trama. Anzi, dura anche tanto, la trama è già finita, ma c'è questa scena di quei due parenti che avevamo visto all'inizio, non il morto e l'uomo scimmia, quei due parenti che stavano lì a tavola, in una camera d'albergo guardano la televisione. E guardano la televisione a lungo. Quanto? 10 secondi? No. Ma no, 5, 6 minuti, 7 minuti. 5 anche. Minuti a guardare la televisione. Sì, noi non vediamo la televisione, noi vediamo loro. Con la telecamera fissa. Fississima. Cioè, a un certo punto che gira, no, zoomma. Assolutamente no. Fissa. Inguaribilmente fissa. Entra un monaco a un certo punto, Ma bussa? Sì, bussa entra un monaco. Chi sei? Ah, ciao, sei un monaco. Fanno qualche battuta sul fatto che il monaco teoricamente non dovrebbe stare in stanza con delle donne, gli fanno qualche frecciatina. Lui si va a fare una doccia, noi guardiamo la doccia, camera fissa sulla doccia, lui si fa la doccia. Un monaco. Ma esce. Era parente? Non si sa. Esce, si siede accanto a loro a guardare la televisione, cambio di inquadratura, cioè stessa scena ma visto da un altro punto di vista, le persone da che sono 3 diventano 5 e le altre 2 sono il monaco e una di quelle 2 donne sdoppiati. Capito? Cioè ci sono 2 donne, il monaco e poi di nuovo la stessa persona e lo stesso monaco, con un effetto speciale, raddoppiati. Ah. Questi 2 nuovi sdoppiati si alzano, escono, vanno a un ristorante e il film finisce. Questo era. Vabbè, hai detto la fine. No, perché la trama è finita prima. La trama è finita prima, ma in realtà quello che succede con i fantasmi, l'uomo scimmia. La trama finisce prima. E questo però è solo la coda del film. E niente. No, io questo film mi ha incuriosito, devo vederlo assolutamente. Tra l'altro è stato comprato, io so che è stato comprato dall'Italia, io non so, la BIM con un coraggio invidiabile l'ha comprato e quindi vuol dire che lo distribuirà. Adesso io non so chi lo andrà a vedere, però uscirà questo film. Ma quanto dura? Dura un paio d'ore, credo. Sì, mi sembra forse poco meno di un paio d'ore. E insomma, il regista ha dichiarato che lui si è ispirato molto al cinema di serie B thailandese per queste figure dei mostri, dei fantasmi, queste storie così. Che questo quello lui poi tra l'altro non è un nuovo cineasta, ha fatto altri film e come sempre fa nei suoi film mischia realtà e finzione, cioè i fantasmi stanno insieme con gli uomini, non si capisce chi è fantasma e chi è uomo, perché per lui è tutto uguale, fisica, metafisica, tutto uguale. E ha dichiarato che le vite passate dello zio, che del titolo, in realtà, perché poi gli è stato anche chiesto, ma cioè, era il bue, era il pesce gatto, queste sono le vite passate, quelle che fai vedere. Ma anche no, ma magari poteva essere pure una foglia che sta dietro di sfondo a un certo punto, oppure un albero, boh, che ne so, non è diventata una cosa. Ma veramente ho detto Palma d'oro! Palma d'oro assegnatagli, allora, Palma d'oro gliel'ha data, proprio si è preso la responsabilità di dare questo premio, il presidente di giuria che era Tim Burton, e che ha detto... sono venuto qua fino a qua, volevo premiare una cosa diversa. Cioè, per esempio i soliti film occidentali, una cosa diversa premiamo. Ha ragione, esatto, ha ragione. Ha voluto premiare una cosa diversa. Peccato, dico io, peccato, perché c'era un film bellissimo che arriverà sicuramente in Italia perché arriva sempre. Gli hai telefonato, gli hai detto? Gli ho detto, bella fregnaccia. Che era Another Year, ovvero un altro anno, di Mike Leager, che già aveva fatto Segreti e Bugie, che è un film bellissimo, forse il film più bello che ho visto al festival. E sicuramente arriverà e ne parleremo quando arriverà, lo annunceremo in pompa magna perché è veramente un gran film. E c'è anche un bel film sul burlesque che ha vinto il premio come miglior regista, e il regista è il cattivo dell'ultimo Bond, Quantum of Solace, cioè quel cattivo francese. Ah. Lui è un grandissimo attore francese, bravissimo, forse il migliore della sua generazione, cioè dei nuovi, dei più giovani, è il migliore. Si chiama Matteo Amalric. Ha fatto questo film da regista che si chiama Tournée, e che è su una compagnia di new burlesque americana che va in tournée in Francia, ed è molto molto molto carino. Bene, ma parliamo di dove risiedevi tu. Non ti hai visto la foto? No. Allora vai, vai sul mio profilo Facebook. Ah beh. Perché a me mi è stato detto. Allora, annunciamo questa cosa. Io vado a Cannes, a differenza di molti giornalisti, io vado a Cannes a spese mie. Cioè io mi pago. Perché è una scelta. O ti fai mandare da una testata e ti pagano loro, ma lavori solo per loro, o lavori per tante persone, però ti paghi tutto tu, chiaramente. Io per siccome tengo alla mia libertà, sono andato pagando. E che vuol dire sono andato a risparmio, per tradurre questa cosa. Certo. Non risiedevo a Cannes, non proprio a Cannes. Sono andato, metti le foto. Risiedevo a Juan Le Pen, che è a 10 km da Cannes. Beh, devo dire che Juan Le Pen ci si sta bene, vecchio mio. Sì, però io non ero proprio. Vai giù. C'è il set Cannes 2010. Ah. Io non risiedevo proprio, diciamo, nella zona migliore di Juan Le Pen. Nel lungomare? Sul lungomare sono tutti i baretti? No, più sul lungo binario. Prendi la terza foto, quella lì. Io ero proprio, cioè, aprivo la finestra di casa al primo piano c'era il treno. Bella però. Ma il treno. Realismo, neorealismo italiano. Sì, ma per spiegarlo alla radio, il treno è un'altezza che se io avessi scavalcato il balcone. Si vede. Sì, sì, sarei entrato nel treno. Cioè, era proprio la mia altezza e avrei dovuto fare 20 passi più o meno. A me la signora della casa mi aveva detto, che era un italo-francese, mi aveva detto: è molto vicino alla stazione. Si sente. Esatto. E io me ne sono accorto quando sono arrivato, che ero molto vicino alla stazione. E ero in questo luogo che sono stato accolto. Quando sono arrivato la sera con la macchina, non c'era nessuno, era deserto. E poi in Francia avevano letto prestissimo, erano le 10 ed era deserto. Il deserto. Joan Le Pen deserto. È la parte dove sono arrivato io, sì. Ah, beh, tu stavi dalla parte di sopra? Sì, più o meno sì, ero lontano dal mare, sì. Ah, qui stavi sopra? Sì. Quello è un brutta zonetta, quindi. Ero accolto da praticamente bambini senza casco sui motorini che facevano le pinne. Questa era la cosa. E fanno anche i vulavan. Molto buone. Spaccano vetri e rubano roba dentro. E insomma, mi sembrava Gomorra, mi ha ricordato molto questo luogo. Se vai a Nizza anche. Io a Nizza sono passato molto velocemente, ho accelerato, sono passato per Nizza. E niente, era una zona raccomandabile. Io poi, ignorante come sono, pensavo che Juan Le Pen fosse così, cioè un luogo poco raccomandabile. Vabbè, se vai sul lungomare. In realtà è l'ultima sera, siccome ero disperato perché non trovavo feste a cui imbucarmi per mangiare, sostanzialmente, perché una delle mie attività parallele è trovare feste per mangiare. Sì. Sono andato a mangiare a Juan Le Pen e ho cominciato a vagare con la macchina, perché dove stavo io era tutto chiuso e anzi quei posti che erano aperti era meglio che non li evitassi, lasciarli. Esatto. Sono andato un po', sono andato vicino al mare pensando di trovare qualcosa e ho trovato locali, vita, gioventù, certo. Sì, un mondo che il mi era oscuro. Il lungomare, l'hai fatto il lungomare dove c'è tutti i locali fatto, da una parte esatto, e dall'altra? Sono fatto, esatto, quella poi la parte lì proprio l'ho fatto. Lì c'è un, anche buoni. C'è una vineria, un mio amico, se me l'avessi detto. Vedi, a saperlo, a saperlo. E niente, sì, questa era la mia residenza. Ma comunque già, uscivo la mattina alle 8 e rientravo la sera alle 10, facendo attenzione a fare poco rumore, perché volevo passare il più inosservato possibile. A un certo punto una mattina sono uscito, c'era un riccio spappolato sulla strada. Sono rientrato la sera, c'era ancora. Sono uscito la mattina, c'era ancora. C'era ancora, vabbè. Auguri per i nostri 23 mesi assieme a Ioana. E dirle che l'amo, Paolo Gemini, salutiamolo, lui e la sua compagna. Ma avete fatto venire in mente l'Anticristo, visto al cinema mi sembrava inizio 2010, sto ancora escogitando il modo. No, questo è molto peggio. Guarda, te lo dico, io sono uno. A me, per esempio, Anticristo mi è piaciuto, come mi piacciono solitamente anche i film di David Lynch, quelli insomma, quelli più duri. Qui siamo oltre, siamo proprio oltre. Beh, telecamere fisse a Lagunei proprio. Sì, sì, ma pochissimi dialoghi, veramente ridotti all'osso. Ma zio, per far uscire dalla sala giornalisti, critici, cioè, però ne ho vista di gente che usciva. E quando l'hanno premiato? Io ero in macchina e ridevo come un pazzo perché stavo tornando, non ho assistito alla premiazione. No, veramente, veramente divertente. Film di cassetta non ce ne sono stati, cioè quelli blockbuster. C'è stato, no, c'è stato molto povero anche da quel punto di vista. C'è stato un film con Sean Penn e Naomi Watts, su, molto politico, sul, su un caso vero di questa Valerie Palm, che era una della CIA, che al momento in cui l'America volle entrare in guerra, in, adesso ultimamente, la guerra per le armi di distruzione di massa, lei indagò, scoprì che non c'erano subito e cominciò a alzare il casino della serie, cioè non alzare il casino, negli ambienti a dire no, non ci sono, non andiamo, non ci sono, non andiamo. Il marito cominciò anche a parlare alla televisione, a parlare ai media, e lì è successo il casino, che l'hanno estromessi da tutto, l'hanno accusati di questo mondo e quell'altro per non farli parlare. E questo film con Sean Penn e Naomi Watts, noiosissimo, che si chiama Fair Game, era bruttissimo, che hanno fatto su questa materia, che pure è stata una grande delusione. Ma insomma, bei film. C'è stato Woody Allen, che a me è piaciuto molto, era fuori concorso, mm-hmm. E si chiama You Will Meet a Tall Dark Stranger, wow. Incontrerai uno straniero alto e scuro. Si è visto Takeshi Kitano, il nuovo film di Takeshi Kitano. Takeshi Kitano ritorna a fare i film sui gangster. Ah, bruttissimo. È stato veramente un colpo. Veramente. Un film senza idee. Cioè, è una serie di sparatorie una dopo l'altra, ma senza l'azione all'americana. È una serie di gente che spara altra gente, ma così. Io tra l'altro l'ho anche intervistato, Takeshi Kitano, sono stato contentissimo di averlo incontrato, perché comunque poi insomma è stato un periodo della mia vita che era un mio mito totale. C'è la foto qui. C'è la foto, ho fatto anche la foto con lui. Pensa che lui, per fare questa foto, sul serio, si è alzato in piedi e si è messo con le mani dietro la schiena, fermo immobile. Io mi sono posizionato accanto e ci siamo fatti la fotina. È stato veramente un bel momento. Bravo. Gli ho detto, perché lui aveva fatto tre film, quelli prima di questo, in cui dichiarava, per tutti e tre i film, dichiarava di non avere più idee. Cioè, proprio non ho più idee. L'unica cosa che posso fare è ricominciare a fare i film vecchi, che andavano bene, mi metto a fare le cose come le facevo prima. Certo. E allora gli ho chiesto, ma te hai fatto questi tre film in cui non hai fatto altro che dire che non avevi idee, forse era meglio tornare alle cose che facevi prima, e adesso hai fatto di nuovo un film di gangster. Cioè, sta cosa è legata. E lui mi ha risposto: guarda, se quei tre film che io ho fatto sulla mancanza di idee avessero incassato, avrei continuato a fare quei film là. Questo è stato quello che mi ha risposto. Poi ho chiesto un'altra cosa che ci ha fatto morire dal ridere. Siccome lui dipinge anche, lui era quello che aveva fatto Mai dire Banzai, Takeshi's Castle, ha fatto i film di gangster, ha fatto film poetici, dei drammi poetici bellissimi, insomma ha tanti pubblici diversi, ha tante persone con gusti diversi che vedono cose diverse. Ma che faceva lui fa. Anche l'attore lui? Sì sì, nei suoi film recitava. Zatoichi fu il suo. Sì, bellissimo. Cioè è lui che recita? Sì sì sì, dirige e recita. E anche in questo dirige e recita. E insomma gli ho chiesto: tu che hai tutti questi pubblici così diversi, hai in mente di fare un giorno qualcosa che li riunisca tutti, cioè che assommi tutto quello che fai, cioè, e che possa grazie, prendere? Grazie, mi hai dato l'idea. Lui mi ha detto: sì, una religione. Ha detto: una religione? Sì sì, vabbè, scherzava dicendo fonderò una religione. Ah. No. E farò soldi vendendo pendagli e collanine. Questo è quello che hanno. Grande. Vabbè, Vasquez, se non hai altro da aggiungere, noi ci vediamo venerdì. Che altro dire? No, possiamo dire un'ultima cosa. Sì. Che dei film... Ah, ecco, questa invece è una cosa importante, mi hai ricordato. Film, andate a Cannes, che già sono usciti. Ce ne sono due, sono italiani. Uno è La nostra vita, il film con cui, per cui il Germano è stato premiato. Ma che... vale? Allora, te avevi visto Mio fratello e figlio unico? No. Allora, Mio fratello e figlio unico è un film... italiani. Lo so, però è un film di 2 anni fa, mi sembra, 2 o 3 anni fa, di Daniele Lucchetti con Elio Germano, quindi stesso team di questo. Anzi proprio stesso identico team, perché anche il direttore della fotografia, montatore, tutti gli stessi, infatti lo vedrete, a vederlo sembra proprio uguale, che era molto bello, veramente un gran bel film. Questo non è all'altezza, è un film racconta di Elio Germano, operaio, a cui subito muore la moglie immediatamente nelle prime scene, e si trova lui da solo con i ragazzini e tenta di colmare questo lutto coi soldi. Ed è un film alla disperata ricerca dei soldi, che parla molto di come oggi in Italia si cerchi solamente il denaro, sostanzialmente. Però è un film abbastanza povero, cioè insomma non è assolutamente all'altezza del predecessore. Io, a me non è piaciuto parecchio. Invece straordinario, se potete andarlo a vedere, esce settimana prossima, le quattro volte, non mi ricordavo bene, Le quattro volte di Michelangelo Frammartino. È un film stranissimo, che è passato nelle sezioni parallele alla Kensen del realizzatore, è andato. È un film tra il documentarista e il finzionale, ma è difficile definirlo, dove non parla nessuno ma si muore da ridere. È un film divertentissimo, ma in come? Cui in cui non parla praticamente nessuno. Ehi. È un film di quelli camera fissa dove non parla nessuno, ma lui usa questa camera fissa e questo fare documentaristico per far ridere. E ci riesce? Sì, io mi sono divertito. Sarà pure magari... Vabbè, tu sei un animo magari... semplice. Esatto, a parte quello. No, a parte che poi magari uscivo dal film thailandese e mi avrebbe divertito qualsiasi cosa. Lo credo. Però diciamo che magari, ok, io lì mi sono ammazzato dalle risate in condizioni normali, forse ridi e basta. Non ti ammazzi, però ridi. Però comunque è divertente. È molto, molto, molto bello. E vale la pena andarlo a vedere perché è un film italiano che fa qualcosa di molto diverso. È piaciuto tantissimo lì a Cannes. Io vedevo le riviste di Cannes, quelle con, sai, quelli che danno lì durante il festival, che avevano tutte quante il film italiano in copertina. Li mettevano in copertina. Sì, ma la trama? La trama, brevemente, telegrafica. Allora, la trama è, si racconta, in questo luogo di provincia c'è un contadino. E è difficile raccontare la trama perché questo contadino che a un certo punto muore. E là dove muore lui, dove viene sepolto lui, mangia una capra. La capra partorisce un agnello. L'agnello viene sacrificato e la cenere che viene usata per bruciarlo diventa un palo e poi finisce. È un film strano, è un film che procede per scene, per ellissi, e queste quattro volte sono le quattro incarnazioni. Però non è un film intellettuale. Ma perché fa ridere? Sono come gli sketch, appunto, come l'ho detto io, sembra un film intellettualissimo. In realtà non lo è per nulla, veramente per niente. Gli scivoloni torti in film, faccia. No, è un film di scene, è un film veramente di documentario sulla provincia. Per cui sono queste scene di provincia, o scene di campagna, cioè alcune le più esilaranti coinvolgono una capra, che è difficile spiegare perché facciano ridere, ma fanno ridere, perché a un certo punto tu le vedi e ridi, perché dici ok, che idea stupida e divertente. Guarda, è molto, lo so che non riesco a essere invitante, però vi dovete fidare. Insomma, che è andarla a vedere perché fa ridere. No, tipo le comiche. No, che non è scemo, è un ridere intellettuale. Però è un ridere comunque. Ad andarlo a vedere perché è un film veramente interessante di un italiano che fa una cosa stranissima, diversa da tutte quante, che io non avevo mai visto, che in Francia ha fatto impazzire tutti. E che ovviamente, come al solito queste cose, nessuno gli ha dato una lira, non si sa come lo distribuiranno, ha fatto tutto da solo. Ha preso la telecamera, via in spalla e via, e andiamo in provincia e cominciamo a filmare. Lui è un milanese che è andato a filmare in Calabria. Poi ha fatto tutto quanto, ha chiuso il pacchettino, l'ha inviato al Festival di Cannes. Il Festival di Cannes gli ha detto: bello, questo lo mandiamo a una sezione parallela. Alla grande, lo prendiamo proprio, piace a tutti, capito? Ma ti pagano quando ti proiettano un film a Cannes? No, anzi, cioè saresti tu a voler pagare. Perché comunque vuol dire, cioè a Cannes immagini che oltre ai giornalisti ci sono i compratori, cioè la BIM, la Medusa, la Fandango, solo per dire gli italiani, chiaramente Rai Cinema, ma anche Mediaset, tutti quanti vengono a vedere i film proprio. Diciamo, questo qui lo prendiamo, questo no, perché oltre a quelli del concorso e quelli fuori che sono magari non molto commerciali, poi c'è anche la sezione mercato, cioè tutta un'altra sezione del festival che non ha niente a che vedere con la competizione, che dove io non potevo entrare, io giornalista, perché non ci vuole l'accredito per il mercato, dove vanno i professionisti, dove si mostrano i film che usciranno tra un anno, magari scene, footage, quindi anche sceneggiati, cose, no, non serie, televisione, solo cinema. Io ho visto qualche cartellone delle cose che presentavano, presentavano i nuovi film di Takashi Miike, per dire, insomma, si presentano cose strane e particolari, i compratori vanno a cercare le chicche, vanno a cercare quel film strano che poi magari incassa, vanno in cerca, e ovviamente guardano anche i film in concorso, perché appunto se c'è un francese, un tedesco, un inglese, un americano. Io ho visto molti film americani indipendenti, ce n'è uno molto bello che si chiama The Myth of American Sleepover, che è un film adolescenziale tipo American Pie, però autoriale, cioè intellettuale, cioè facciamo un film su queste cose, sugli adolescenti che vogliono fare l'amore, vogliono fare sesso, però lo facciamo da un punto di vista intellettuale, che è un esperimento stranissimo, molto, molto curioso. E appunto ha un regista, fa molto gioco che ci sia gente che guarda il suo film. Cioè, ma gli ha chiesto di Takeshi's Castle, Takeshi Kitano, non ci ho avuto il coraggio, perché ho sempre l'idea che glielo chiedano tutti e mi sono vergognato. Poi devo dire che ero molto in imbarazzo davanti a Takeshi Kitano, poi gli ho dovuto fare delle domande in cui gli dicevo che il suo film non mi era piaciuto, insomma, ero in un imbarazzo pazzesco, non ce l'ho fatta. Che ne pensi di The Road? The Road, il film, non il libro, che adesso sta arrivando in sala finalmente, a me non è piaciuto per nulla, proprio non mi è piaciuto. È un film apocalittico, di quelli che sulla carta sembrano belli, cioè padre e figlio, è scoppiata un'apocalisse, non si sa quale sia, però siamo ormai nel post, in cui tutto è distrutto, i tralicci per terra, palazzi sfondati, padre e figlio che girano per l'America tra mille pericoli, perché ci stanno i cannibali, ci stanno quelli che sparano, ci sta di tutto. Però a me non mi è piaciuto per nulla, no, veramente bruttino. Vabbè, film che usciranno ai 30 secondi. No, Luciano li facciamo venerdì. Venerdì, va bene. Insomma, mi li brucio, non so che dire. Tu che sei da Ah, ho visto un'altra bella cosa, perché adesso l'ho letto qua. Perché 07 sai che sta fermo. Pensavo che a Cannes avessi. No, niente, nessun indagato, fatto. C'è stato, per chi lo conosce, Il Sole Ingannatore. Il Sole Ingannatore fu un film che fece un sacco scalpore qualche anno fa. E era in concorso a Cannes Il Sole Ingannatore 2 di Nikita Mikhalkov. Bellissimo, un filmone russo, ma è il film russo dal più alto budget della storia del cinema russo. Sembra a vederlo americano, per spiegarvi com'è, insomma. Capito? Trama, 5 trama, parole. Sì, trama. Dovresti aver visto il primo. Comunque, il colonnello Kotov, che era stato imprigionato alla fine del primo, seconda guerra mondiale, scappa dalla prigionia, dal carcere russo, dal campo di prigionia russo, scappa e cerca la figlia, e la figlia cerca il padre. Loro si cercano nel mezzo del secondo conflitto mondiale. Un'ira di Dio. Sì, via col vento, capito? Come tipo di film, capito? Quelle cose dove succede di tutto, miliardi di comparse, esplosioni, cose, battaglia in mare, battaglia in terra, battaglia in cielo, e il colonnello che non la vede, molto melodrammatico, molto sentimentale, come sono questi filmoni epici, capito? C'è anche molto, molto religioso, stranamente per i russi, no? Molto religioso anche, che insinua il fatto che, non so, magari è anche vero, che all'epoca in Russia chiaramente la regione era bandita, ma in realtà poi ci fossero tutti dei culti sotterranei, la gente praticasse lo stesso, anche se era bandita qualsiasi forma di religione. Dobbiamo interrompere qui, siamo fuori dal tempo massimo. Bene. Grazie Vasquez, a venerdì. A venerdì.